L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta. Non ci stancheremo di dirlo, quello della sostenibilità, dello sviluppo intelligente e del rispetto per l'ambiente, ovvero il nostro pianeta come solo in parte è, ma come potrebbe diventare. Questa su Radio 24 è stata la settimana della mobilità elettrica. Ne abbiamo parlato in Salvadanaio, ne ha parlato Mr. Kilowatt, ne parliamo oggi anche noi dell'altro pianeta con un'esperienza diretta e concreta in Fieri, ovvero quella di Parma, che al momento in Italia ha forse il progetto più ambizioso di promozione dell'auto elettrica. Perché colonnine per la ricarica delle auto elettriche stanno sorgendo a Torino, Genova, Milano, Brescia, Firenze, ma Parma vuole di più, vuole diventare Zero Emission City, ovvero città a emissioni zero, il che significa arrivare ad avere tra i 400 e i 450 veicoli elettrici in circolazione entro il 2012. Questa settimana a Parma si è tenuto il convegno Politica Europea per la Mobilità Elettrica, durante il quale 8 case automobilistiche hanno firmato la lettera di adesione al progetto. Alla firma c'era per noi Irene Privitera ed ecco il sindaco di Parma, Pietro Vignali, al suo microfono. Parma ha avviato un progetto pilota, sicuramente un progetto pilota nazionale, ma credo anche un'esperienza interessante a livello europeo. Parliamo di un investimento di 9 milioni di euro, 1,9 milioni di euro all'inizio, 100 auto entro il 2011 elettriche e 1000 auto entro il 2015. Sono 300 le colonnine di ricarica elettrica che noi vogliamo installare in città, quindi una piattaforma consistente per tutte le case automobilistiche, e circa 6.000 euro di contributo di incentivo a tutti coloro che vogliono acquistare una macchina elettrica. Quindi riteniamo che questo possa essere veramente un progetto pilota per cercare di salvaguardare il diritto alla mobilità con il diritto alla salute. Da 12 anni lavoriamo sulla sostenibilità e l'ambiente. Finalmente cominciamo a raccogliere i frutti, dice l'assessore all'ambiente del Comune di Parma, Cristina Sassi. Noi ci siamo dati un obiettivo che è la nostra visione di Parma del 2020, una città compatta che riesca ad avere delle forme di spostamento assolutamente sostenibili, che riesca ad avere una rete di piste ciclabili assolutamente usufruibili. Oggi ne abbiamo circa un 100 km distribuiti sul nostro comune, ma non tutte sono funzionali come vorremmo, perché incide ormai anche il discorso manutentivo, che è essenziale. Se io faccio una cosa la devo mantenere. E come farà Parma a diventare compatta? Carlo Iacovini, responsabile del progetto Zero Emission City. L'idea è quella dove l'ente locale assume un ruolo di coordinamento strategico e politico, crea una piattaforma, coinvolge tutte le case automobilistiche e costruisce la domanda, cioè coinvolge anche le imprese del territorio. Quindi un grossissimo lavoro di sinergia e coordinamento sul territorio e col mondo dell'industria per ricreare già da subito nel piccolo quello che sarà il mercato della mobilità fra 10 anni. La ratio del progetto nasce dal fatto che se fra 10 anni la mobilità elettrica sarà diffusa capillarmente sul territorio, oggi no, perché si inizi a parlare concretamente, abbiamo ritenuto opportuno costruire una sinergia con tutti gli attori istituzionali e privati. Ed eccoli qui gli attori che hanno firmato il patto di Parma: Chevrolet, Citroën, Mitsubishi Motors, Nissan, Opel, Renault, insieme con Pininfarina, Gruppo Tazzari ed Estrima, oltre alla Ducati Energia che fornirà l'infrastruttura di ricarica. Presto si uniranno poi a questo gruppo Iveco, Peugeot e Toyota. Per i residenti il sindaco promette non solo investimenti, quelli di cui ci ha detto prima, ma anche incentivi. Le ricariche che metteremo in città, che sarà la piattaforma su cui tutte le case automobilistiche potranno utilizzare, saranno piattaforme di ricariche elettriche che noi andremo a realizzare con la multi-utility IRE, e poi incentivi fino a 6.000 euro per l'acquisto di macchine elettriche. Quindi significa un incentivo del 20% del prezzo della vettura. Noi siamo convinti che per perseguire una mobilità davvero sostenibile è necessario che progressivamente ci si svincoli dalla dipendenza dalle fonti petrolifere. Questo invece è Andrea De Maria, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Riassume il punto di vista delle case automobilistiche. Trazione elettrica senz'altro è una delle alternative più suggestive e promettenti fra quelle che abbiamo a disposizione, E in quest'ottica noi riteniamo che questa iniziativa che qui a Parma è stata intrapresa sia degna di grande applauso. Concetti ribaditi dall'ospite d'onore del convegno, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea. C'è bisogno di lavorare per avere un'alternativa. L'alternativa si chiama motore elettrico, motore ibrido, motore a idrogeno. Parma ha fatto una scelta a favore dell'elettrico, mi sembra una scelta lodevole, sono qui proprio per dimostrare il grande interesse della Commissione europea per questo settore particolare dell'industria automobilistica e dell'industria dei veicoli. Iacovini però illustra precisamente due bei problemini da affrontare. Le caratteristiche delle colonnine sono quelle di aderire agli standard internazionali che sono in corso di definizione a livello di commissione, per cui la commissione ha definito dei criteri, oggi ci sono due tipologie di prese principalmente e quindi diciamo che le case auto che producono i veicoli sono più o meno adattate o a uno o all'altro. L'obiettivo è creare una piattaforma che sia aperta alle diverse tecnologie con le diverse prese e per poi dopo uniformarsi a quello che sarà lo standard europeo, che comunque è un work in progress di quest'anno. Le 100 vetture sono previste per la fine quindi del 2011? Entro la fine 2011, dipende chiaramente questo anche dalle case auto, perché molte case auto che dicono di avere le vetture in realtà commercialmente non le hanno. E se sulla produzione di auto elettriche l'Europa non può far nulla, sugli standard Antonio Tajani assicura una rapida azione. L'idea anche di poter dare degli standard omogenei per quanto riguarda le prese elettriche entro la fine dell'anno, perché ho già dato mandato ai responsabili della standardizzazione di presentare delle proposte, significa che si possa compiere un passo in avanti, soprattutto nella direzione di chi vuole utilizzare l'auto elettrica già oggi nelle zone transfrontaliere, perché passare, che ne so, da 20 miglia a in Francia, se non ci sono gli stessi standard, è un po' difficile. In Europa c'è Amsterdam, che punta ben più alto di Parma, 10.000 veicoli elettrici entro il 2015, ma è partita prima, è meglio. Nel resto d'Europa, infatti, le politiche di incentivo alla diffusione di auto elettriche sono ben più incisive. Eccone qualcuna. La Gran Bretagna ha finanziato il programma di sviluppo elettrico con 230 milioni di sterline, prevedendo una detassazione per le imprese che utilizzano i veicoli elettrici, mentre gli acquirenti di auto elettriche beneficeranno di uno sconto del 25% sul prezzo di listino dell'auto, fino ad un massimo di 5.000 sterline. In Irlanda, chi comprerà una vettura elettrica potrà godere di un incentivo di 5.000 euro e sarà esente dal pagamento della VRT, tassa di registrazione. Per diventare leader europeo della mobilità elettrica, il governo irlandese ha stretto un'alleanza con ESB, Utility dell'Energia, e con Renault-Nissan. Anche la Spagna ha investito nel settore. Sono previsti incentivi per veicoli elettrici fino al 20% del prezzo totale, con un tetto di 6.000 euro. Obiettivo: la creazione di un parco di 250.000 veicoli elettrici entro il 2014. Il vicepresidente della Commissione Tajani crede comunque molto nelle possibilità di Parma di reinventarsi e partecipare di un progetto pilota comunitario denominato Smart Cities. Una delle innovation partnership che noi abbiamo previsto parla di Smart Cities. Interesserà probabilmente un set di una ventina di città pilota selezionate dalla Commissione europea in base a criteri di merito e geografici. Mi farebbe piacere vedere Parma tra le città candidate a partecipare a questo progetto pilota comunitario, che sosterrà diverse città europee nello sviluppo di progetti pilota che avranno l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai livelli attuali, incrementare del 20% le quote di fonti di energia rinnovabili utilizzate per le forniture elettriche, riscaldamento e climatizzazione, incrementare del 20% l'efficienza energetica, aumentare del 20% l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, infine incrementare non del 20 ma del 50% la flotta dei veicoli verdi impegnata nei trasporti. Essere scelti per far parte del ristretto gruppo di città europee per la sostenibilità non spaventa, anzi Davide Mora, che è l'assessore alla viabilità del Comune di Parma. Il futuro ce lo stiamo costruendo adesso, questo è un progetto che ha una sua forza pionieristica, per cui la volontà amministrativa, la volontà politica di Parma è quella di essere capofila in questo discorso dell'auto elettrica in Italia, se possibilmente anche facendo parte di un pool di una ventina di città europee, come diceva il commissario Tajani. Il ragionamento è chiaramente, secondo me, valido, perché siamo all'inizio di una fase storica nuova e quello che fino a qualche anno fa sembrava molto futuribile oggi invece è già alla portata della tecnologia e già case automobilistiche hanno modelli esistenti. I problemi non sono risolti, le auto elettriche costano molto di più delle altre, c'è il problema della ricarica, però da qualche parte bisogna partire e il circolo vizioso tra l'uovo e la gallina va rotto con un'iniziativa come quella che noi stiamo mettendo in campo. In questi giorni in cui nella pianura padana sono tornati i blocchi del traffico per livelli di smog inaccettabili, il tema della mobilità è sulle labbra di tutti. È colpa del traffico se viviamo in queste condizioni? Al nord, ma anche in molte realtà del sud? In gran parte sì. È cosa nota. Intervenire sulla mobilità con misure una tantum può servire solo a evitare le multe che l'Europa ci affibbia annualmente perché sforiamo i limiti di inquinamento previsti. Limiti di inquinamento accettati anche da noi attraverso la nostra adesione all'Unione Europea. Nicola Pirrone è il direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Una misura tampone più di tipo amministrativo che di tutela della salute. Limitare il traffico un giorno non è che crea valore aggiunto alla salute dei cittadini né tampoco alla qualità dell'ambiente. Quei blocchi che invece più ampi sono stati fatti negli anni scorsi di molti più comuni dell'intera pianura, quelli hanno avuto un qualche efficacia che sia stata riscontrata scientificamente? Diciamo l'efficacia è sempre una misura tampone che può durare qualche giorno, ma se lei proietta questa efficacia su un periodo temporale di un anno o anche più per valutare i benefici, perché di questo parliamo, diciamo che il vantaggio è limitatamente al periodo, perché poi dopo che si toglie il blocco si ritorna appunto da capo. E come abbiamo già commentato e come ogni anno ci ritroviamo a commentare, quindi anche col rischio di ripetersi, è che bisogna fare interventi strutturali sulla mobilità soprattutto, perché a livello di impianti industriali molto è stato fatto, però sulla mobilità, sul riscaldamento domestico, sono i due fattori che incidono principalmente nelle aree urbane. E c'è poi il paradosso di misure che a livello globale possono far bene, come i motori diesel, quelli di ultima generazione, ma che in pianura, in questa pianura padana, fanno male. Così ammette Giampaolo Gobbi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima. Sì, questi nuovi supermotori producono grandi quantità di particelle finissime che inalate possono arrivare nel sistema circolatorio, anche quindi magari sono più efficienti dal punto di vista della produzione del CO2, no? Quindi dal punto di vista climatico sono più efficienti, però dal punto di vista poi del rischio sono ad alto rischio. Sì, l'unica sarebbe cambiare motori forse a questo punto, se parliamo di traffico. L'unica sì. Sarebbe sì, avere eventualmente appunto motori più puliti, che è un po' diciamo l'indirizzo in cui si tende, però lo stesso discorso immagino valga per le caldaie anche lì. Esattamente, il contributo del riscaldamento delle case è più o meno lo stesso livello di quello del traffico. In estate questo non succede, ma prevalentemente perché c'è, vi parlo sempre di PM10, non succede perché c'è una dispersione maggiore, perché l'atmosfera si muove di più, e c'è un componente inquinante in meno. Quello del riscaldamento sicuramente è in meno, però diciamo che anche quello lì è un fattore diciamo del 20% forse del totale in inverno, per cui l'altro 80% rimane anche in estate, rimarrebbe anche in estate, però in estate diciamo l'atmosfera si rimescola di più. Per tutti gli interpellati la soluzione è unica: meno auto o altri motori. L'altro pianeta. Bentornati all'altro pianeta. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di auto elettriche e domeniche antismog. Attenti domani a Milano, Torino e in 9 comuni limitrofi al capoluogo piemontese. E se volete riascoltarci c'è il sito internet radio24.it e lo spazio dedicato a questa trasmissione. Ora è il momento però di dare voce al nostro ospite della settimana. È Paul Bacolongoi, mediatore culturale e scrittore. Scrive di ragazzi e per ragazzi e, come fa intuire il nome, non è di origine italiana. Paul è nato nella Repubblica Democratica del Congo, ma vive da anni a Pavia, dove l'aria non è certo delle migliori. Il suo nome l'abbiamo trovato in calce a una sottoscrizione di Genitori Antismog, associazione milanese di, appunto, genitori preoccupati che lo smog minacci la salute dei propri figli, e l'abbiamo quindi contattato. Beh, sicuramente nel momento in cui dalla mattina alla sera dobbiamo vivere la città, e vivere la città vuol dire anche poter avere quegli spazi dove uno va a respirare a pieni polmoni, e se ci ritroviamo già che quello che respiriamo non c'è che danneggiarci, non solo mi preoccupo per oggi, ma mi preoccupo anche per domani, vuol dire anche per i figli. E come poi Pavia è chiamata città a misura d'uomo, quindi deve recuperare quegli aspetti che permette all'uomo, appunto, di vivere. Tu personalmente hai qualche pratica, diciamo, vai in bicicletta, usi soprattutto i mezzi pubblici, che tutela un po' l'ambiente? Sì, cominciamo a dire, soprattutto la mia prima scelta è quella di non usare l'auto, nel senso che non ho proprio la macchina. Quindi già questo fa capire come per me muovermi vuol dire soprattutto cercare il più possibile di utilizzare i mezzi pubblici. Tra l'altro avevo anche proposto, diciamo, instaurare, se possibile, far capire ai cittadini che se abitiamo vicino e vogliamo portare tutti i figli a Pavia, usiamo una macchina. Quindi cominciare a fare carpooling. Esattamente. E da questo si potrebbe, cioè è una cosa che è difficile da fare entrare nella mentalità delle persone, soprattutto perché qua c'è la mia macchina, e già questo, condividere la mia macchina, diventa qualche cosa che è difficile da far togliere alle persone, che la macchina è solo un mezzo che ci permette di. Tu hai detto qui c'è la mia macchina, perché pensi che nel tuo paese d'origine le cose siano diverse, sia un po' più facile condividere, forse? Sì, molto più facile, perché già i tassi sono condivisi, senza star lì a fare paragoni, però io sono cresciuto a Kinshasa, che è una città che conta 6 milioni di abitanti. Chiaro che se vado nei villaggi in Africa respiro decisamente molto meglio, perché io, per esempio, non so, nei miei libri parlo della foresta, parlo del fiume Congo, eccetera, già da quelle parti l'aria comincia a essere respirabile, anche se il fiume, purtroppo, l'avidità dell'essere umano arriva anche lì e sta danneggiando molto anche il fiume e di conseguenza anche la foresta. Ecco. La natura entra molto nei tuoi scritti, ne senti la mancanza di quella natura? Io ne sento tantissimo la mancanza, anche se, come qualcuno mi diceva, ma prima avevi il fiume Congo, adesso hai il fiume Ticino, non ti basta? Certo, ringrazio che almeno c'è, però voglio dire, già dalle dimensioni, da delle cose che si possono fare. Io mi ricordo da ragazzino le passeggiate in barche sul fiume, le gare di pesca che andavamo a vedere, ad assistere, poter avere delle persone che ti guidassero all'interno della foresta per dirti che questa pianta la puoi mangiare e non è velenosa, mentre l'altra, se solo la tocchi, ti porta anche a dei problemi sulla pelle. Sono tutti piccoli trucchi che qualche volta, quando ci ripenso, effettivamente sono cose che mi mancano, anche se io continuo a ripetere, non vivo di nostalgia, vivo di bei ricordi che ho di quei posti. Sono ricordi anche olfattivi, no? Per tornare al discorso dell'aria, a volte si riconoscono dei luoghi a occhi chiusi per gli odori che ci sono. Guarda, io a proposito di questo, ho proprio l'esperienza di questo mio amico che giocava a pallacanestro qua a Pavia, Stefano Attruia, che saluto. Quando siamo andati insieme in Congo, è stata una delle prime cose che lui, perché siamo andati appunto proprio nei villaggi, quando siamo arrivati appunto nei villaggi, una delle prime cose che lui mi ha detto, ma senti che odore che c'è nell'aria, senti che profumi diversi. E lo smog invece qua spesso c'è. Qua purtroppo già quando ti svegli al mattino te ne rendi conto. E il cielo blu, azzurro, per noi è un sogno, quindi abbiamo questo grigiore che ci fa vedere il cielo di un altro colore, anche se io continuo a dire alle persone, non facciamo diventare quel grigio anche il grigio dei nostri cuori, no? Ci si può aprire anche, il grigio lo si può cambiare. Ma cos'è? Ma che senso ha questo amore per la mia città? Provare stasera c'è uno spettacolo al quartiere 3. L'ha disegnato mio amico e non è niente male. E puoi comprare il giornale, essere quasi sicuro di incontrare qualcuno che hai già visto e che conosci già, per riscoprire insieme che non è affatto strano sentire noia, amore e libertà. La Repubblica, dice l'articolo 9 della Costituzione italiana, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. E proprio così, articolo 9, si intitola questa rubrica che abbiamo affidato a Marco Carminati per la segnalazione di un bene italiano da salvare. Buongiorno a tutti, abbiamo in collegamento con noi Ilaria Borletti Buitoni, la presidente del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, per lei è stata una settimana piuttosto impegnativa e importante perché martedì scorso il FAI ha presentato a Milano la quinta edizione del censimento I Luoghi del Cuore, un censimento dedicato a tutti gli italiani, e appunto gli italiani hanno risposto in questa occasione veramente con una assiduità straordinaria. Addirittura quasi 500.000 di persone vi hanno risposto per indicare un luogo della nostra Italia, un luogo del cuore particolarmente appartato, particolarmente importante per loro, ma qualche volta anche particolarmente in pericolo. Ecco, partiamo subito da uno di questi luoghi che è stato tra l'altro ripreso dalla stampa con grande evidenza, cioè c'è un luogo del cuore per alcuni italiani che si trova nel un posto bellissimo, la Macchia di Migliarino sulla costa toscana, che però è una stazione radio, un centro radio. Siamo a Coltano in provincia di Pisa e qui c'è un centro radio che appunto ha attirato l'attenzione di tanti italiani. Di cosa si tratta, presidente? Dunque, si tratta della stazione radio telegrafica Guglielmo Marconi, che ha ricevuto ben 12.200 segnalazioni. Lo dico perché significa che è un luogo particolarmente vicino al cuore della comunità di Pisa e di Coltano. Questa stazione radiotelegrafica è molto importante perché posso dire insomma che da lì fu ricevuto l'SOS del Titanic, che nel 1931 proprio da lì partì un segnale che poi aveva acceso le luci del Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Cioè è un'opera di altissima e molto innovativa ingegneria che era stata inaugurata nel novembre del 1911, che è rimasta attiva per molto tempo, perché è rimasta attiva fino agli anni 40. Quindi non si tratta solo di recuperare un bene, ma proprio di un bene la cui identità, anche dal punto di vista dell'innovazione, della tecnologia, della storia di quel luogo, è particolarmente rilevante. Sì, infatti ci troviamo tra l'altro in un luogo anche ambientalmente particolarmente pregevole, la macchia costiera di Migliarino, e dentro questa macchia Marconi, grazie al sovrano di allora, Vittorio Emanuele, poté istituire questo centro importantissimo, dal quale appunto abbiamo appreso da lei, sono partiti addirittura dei segnali storici, sono arrivati dei segnali storici. Ecco, come si presenta oggi questa palazzina? Ma purtroppo è in uno stato di degrado terribile, persino il professor Settis se ne è occupato e naturalmente la figlia di Marconi, Elettra, ha cercato il più possibile di promuoverne il recupero, perché andrebbe recuperato, reso visitabile, restituito alla collettività. È veramente in uno stato di totale abbandono e adesso, al di là del fatto che in qualche modo è un bene che celebra il genio di Marconi, ma soprattutto celebra il genio italiano di quell'epoca, che aveva avuto delle intuizioni scientifiche che poi hanno cambiato il mondo. Quindi sarebbe veramente importante, magari in occasione dell'anno in cui si parla di Unità d'Italia, cominciare ad avviare un'opera di recupero che riporti questo bene a essere fruibile dal pubblico. Noi come radio non possiamo tirarci indietro, anzi credo che sarà possibile con Radio 24 e il FAI seguire con una certa assiduità, diciamo, i passi di questa vicenda, a partire dal passaggio dall'erario al comune della proprietà, e poi speriamo di seguire questa vicenda fino al recupero finale. Vorrei però chiederle, presidente, quale altro luogo d'Italia è stato segnalato dai nostri cittadini come luogo del cuore? Quello più segnalato, con quasi 35.000 segnalazioni, è un eremo che si trova in provincia di Foggia, a Monte Sant'Angelo, che è un eremo che risale al VI secolo e in cui per i secoli si sono trasmessi delle esperienze di grande isolamento, eremiti, anacoreti, fino ai giorni nostri, dove è abitato da 5 o 6 monaci. È un posto di una bellezza sconvolgente, sembra di essere in Cappadocia. Ecco, questo direi che è un luogo che ci ha tutti molto colpito, perché non ne conoscevamo l'esistenza, e l'idea che sia stato segnalato in modo così forte, così importante, ancora una volta ci ha fatto riflettere sulla straordinaria, incredibile varietà e anche meraviglia del nostro patrimonio culturale. Ecco, ed è anche significativo che è proprio un luogo, un paesaggio, cioè non un luogo particolarmente segnato dalla presenza di opere d'arte, di ville, cioè, ma un luogo di paesaggio puro, dove ho appreso la fada protagonista, il vento con i suoi suoni straordinari, è stato segnalato e ha vinto questa quinta edizione del concorso I Luoghi del Cuore. Io ringrazio molto, Presidente, della sua presenza e la saluto cordialmente. Grazie. Grazie a lei e grazie a voi per quello che potrete fare. Prima di salutarci, ricordiamo a chi ci ha chiesto informazioni sui mercatini degli agricoltori di cui abbiamo parlato la settimana scorsa che c'è l'elenco completo di quelli gestiti da Campagna Amica sul sito internet campagnaamica, tutto attaccato e con una sola A, .it. Si può cercare per località o prodotto. Tutte le vostre domande potete inviarle a me, laura.bettini@radio24.it. Per oggi è tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.